Radio Wombat, non ve l'aspettavate neanche noi. Lovelace, in mega ritardo. Se, secondo me te non ti si sente proprio. Non vi si sente perché non vi ho No. attivato. Ecco. Ciao. I miei amici immaginari. Sì, no, è vero, non siamo assolutamente in ritardo perché siccome nessuno si aspettava che oggi andavamo in onda, non possiamo neanche essere in ritardo. No. No. Infatti, allora ora facciamo come le persone serie e vi faccio una prova dei microfoni, eh? Cioè perché non sta, tipo per esempio, te proprio non si sente nulla, cioè come se non parlassi. E Io boom shakalaka boom invece sì, shakalaka. se sì. Ma proprio una sega. Prova. Ok. Vabbè, vabbè, vabbè. Beh, due microfoni su tre si sentono e il terzo lo cambiamo nel mezzo. Ah, io lo so perché. Guarda, aspetta, ora faccio una magia. No, faccio un'altra magia. Ecco. Così. Va bene, va bene. Quindi, dicevamo, Lovelace con dei mezzi di sostentamento così tecnici improbabili. D'altronde, questa è la trasmissione dell'Eclab Fiorentino e quindi ovviamente con la tecnica facciamo casino. E quindi niente, abbiamo in realtà a sorpresa deciso di venire in regia e fare una trasmissione nel bel mezzo dell'estate, nel bel mezzo dell'agosto. Caldo e siccitoso, ma in realtà abbiamo da raccontarvi cose anche un po' serie. Ma sì, un po', diciamo, delle cose un po', diciamo, di nicchia e una realtà non considerata alcune volte impattante, ed è interessante vedere come si riesce a virtualizzare un po' qualsiasi cosa da un certo punto di vista, addirittura quello che è quella che è chiamata la migrazione virtuale, quindi. La migrazione virtuale, che come vedremo in realtà di sì, forse di virtuale qualcosa c'ha, però in effetti ha delle grosse differenze con la migrazione, quella che siamo abituati a considerare insomma come la migrazione classica, quella che vediamo tutti i giorni, e come quel fenomeno per cui ci si sposta dal proprio paese e si va, almeno il paese di nascita, diciamo così, si va in un altro paese alla ricerca di condizioni lavorative migliori o perlomeno lavorative, punto, o comunque insomma, la possibilità di lavorare e di fare 2 lire di stipendio e quindi spesso appunto ci si muove fisicamente dal proprio paese. Vedremo la situazione invece di cui parliamo oggi è un tipo di lavoro che in realtà esiste e regge, direi, è un bel pilastro dell'economia e del lavoro in generale attuale, però in realtà non è. Cioè, non è tanto, cioè, c'ha delle grosse differenze con la migrazione invece fisica. Vabbè, un po' come sta succedendo anche, ad esempio, è successo nel nord-est in Italia, insomma, tutte le nuove declinazioni dei fenomeni migratori e dello sfruttamento del lavoro stanno cambiando un sacco e ovviamente il mondo virtuale è È nel mezzo di questo sì, no, è cambiamento. proprio in prima pagina, direi, ecco, ci si infila molto bene, prova a sfruttare in ogni modo, ogni ogni spiraglio che ha per continuare a fare sempre più soldi rispetto a quelli che già ha, tra l'altro, perché si parla comunque sia di anche settori molto proficui, che insomma ci siano tantissimi, veramente tanti soldi, quindi insomma è molto particolare. Però sì, l'aspetto di comunque sia di cambiamento delle implicazioni, almeno della migrazione fisica, cioè dello spostamento effettivo delle persone, è qualcosa su cui sicuramente, ecco, i sistemi, ecco, di produzione si sono adeguati molto bene, ecco, a tutte le possibilità offerte al virtuale, e hanno veramente tirato fuori il peggio di quello che potevano, infatti, forse. Sì. Ma perché cosa intendiamo effettivamente per migrazione virtuale? Nel senso, o perlomeno, noi lo vedremo, magari abbiamo un'idea di un certo tipo, ma comunemente cosa si intende? È un termine che è stato utilizzato per definire un po' tutta una serie di lavoretti, chiamati così anche in maniera un po' offensiva, e che di fatto sono dei lavori che per molte persone costituiscono l'unico lavoro di base, e sono stati paragonati, diciamo, sono stati definiti con questo termine migrazioni virtuali, intendendo che le persone non avevano più bisogno di spostarsi fisicamente, ma potevano trovare delle condizioni di lavoro fruttuose o comunque riuscire a lavorare per l'Occidente, ma stando senza dover andare fisicamente in Occidente, ma rimanendo nel proprio paese, che evidentemente non è l'Occidente. E quindi si intende in questo senso migrazione virtuale, nel senso che non si ha bisogno di andare fisicamente, ma si possono fare dei lavori online, sull'internet, e questo di fatto assumerebbe, metto mille condizionali, poi lo vedremo, abbiamo vari dubbi in merito, sarebbe una sorta di simil migrazione, giusto? Sì, esatto, è fondamentalmente portare, trasferire fuori, emigrare le proprie skills, le proprie conoscenze, e mantenere però proprio fisicamente, rimanere nel proprio paese, portando quindi questa differenza nella migrazione vera e propria, nella ricerca di un benessere che sia poi a livello lavorativo o no, come si diceva. E, per l'appunto, il livello tecnologico qui va a impattare, perché si vanno ad adempiere, a richiedere dei task, dei lavori, dei progetti ad un costo veramente più basso di quello che verrebbe poi pagato effettivamente nella nazione, nel paese del cliente finale. Fondamentalmente funziona in questo modo: c'è un rapporto tra un cliente e un lavoratore, che sono considerati maggiormente freelancer, questa magica parola, e c'è nel mezzo una terza persona, un man in the middle, possiamo definirlo, che è una piattaforma online che riceve dei progetti, delle richieste da dei clienti, e c'ha dei lavoratori iscritti a quella piattaforma, e basta, funziona fondamentalmente così. Applica una piccola commissione al costo che paga il cliente, e poi mano a mano viene eseguito il progetto e verrà pagato il lavoratore. Sono piattaforme che esistono ormai da più di una decina di anni, e variano da quello che è il data entry, quindi lavori che vanno un po' più macchinosi nel quello che è riempire formulari di dati, oppure riconoscere degli oggetti per intelligenza artificiale o no, a scrivere del testo, diciamo una serie di lavori variegati, che hanno portato per l'appunto anche a una certa una sorta di competizione fra le persone che effettuano i lavoratori di quella nazione e i lavoratori che sono di nazioni in via di sviluppo, e si riescono a dare dei prezzi che per loro sono estremamente vantaggiosi, ma che sono molto più bassi di quelli che effettivamente verrebbero pagati nella nazione del cliente. Quindi è una migrazione, per modo di dire, nel senso che effettivamente sì, quello che migra probabilmente sono i soldi, sì. Però in effetti ci sono molte molte differenze con quella che consideriamo la migrazione classica. oltretutto non solo lo stipendio è diverso, ma anche appunto le condizioni di lavoro, anche tutta una serie di chiamiamoli benefit, cioè, la sanità, tutta una serie di cose che se tu ti trovi a lavorare in un paese che non è il tuo, comunque sia usufruisci di una serie di come dire, vantaggi, sicurezze, tutto quello che concerne, sì, un almeno così dovrebbe essere, certo. Poi spesso ovviamente non è così, ma insomma qui proprio non c'è in assoluto. Sì, esattamente, proprio per questo ci sono delle peculiarità su queste piattaforme, su questi servizi che vengono offerti, e ci soffermeremo in questa puntata soprattutto su quei lavori che pagano veramente in maniera diciamo una cifra irrisoria per dei lavori macchinosi che richiedono intere giornate. Si va a parlare di paghe che vanno per esempio a 20-80 centesimi l'ora o fino a $1 al giorno. Sono queste tipologie di per servizi però che poi vengono usati regolarmente, cioè servizi, diciamo, con testi che troviamo regolarmente su internet. Anche. Quindi è interessante anche vedere come questi aspetti di internet capcia a tanti aspetti, ecco, della navigazione sul web. Noi li diamo per scontati e poi magari sono fatti da delle persone, li consideriamo spesso magari automatizzati, invece sono un po' delle persone che fanno tutte queste cose. Sì, esatto. Cioè fisicamente si toglie l'auto magico dalla tecnologia, sì. dall'internet. E per l'appunto quello che andremo a esaminare sono i CAPTCHA, cioè quelle iconcine, quelle caselline che vi chiedono se siete esseri umani. È un po' una domanda filosofica, e vi chiede solitamente di selezionare dei treni, dei sofà, delle cose, le strisce pedonali che non sono zebre, no o zebre sdraiate, zebre sdraiate. È così che passano e non passano i robot, esattamente in questo modo. È un test tipico che gli fanno. Ho scoperto che è un test che fanno davvero. Mandano le zebre contro le strisce pedonali per capire se l'intelligenza artificiale è in grado di distinguerle. Però scusate, continua. Ancora. Una volta in effetti dovresti farci uno speciale su come fregare le intelligenze artificiali. Mettici una zebra. No, CAPTCHA. E fondamentalmente sono i CAPTCHA e poi è tutto quel mondo che sono delle piccole task, dei piccoli compiti, e poi tutto il mondo dei questionari, delle survey che sono attitudinali, oppure di esperienze, oppure di opinioni verso dei prodotti o delle ricerche delle immagini. Per quello che riguarda questi piccoli compiti, si rivolgono fondamentalmente ad avere una lista di indirizzi e ricercare poi gli indirizzi sulle mappe per vedere se effettivamente siano veri o cose del genere, fare delle ricerche specifiche per dei prodotti o via dicendo, queste piccole cose in alcuni casi anche un po' strane. Come dire, ambigue. Sì, alcune volte sì. Soprattutto il mondo anche dei questionari è abbastanza un po' strano, visto che poi sono tutte quelle aziende che si occupano di profilazione, di pubblicità. Cioè alla fine i questionari nascono da quelli e da diversi centri di ricerca che non ho approfondito abbastanza per parlarne di più, per capire quali sono perlomeno. E insomma ci andremo a soffermare su questi tre soggetti principali perché si nota di quanto la paga sia bassa e sono solitamente delle aziende in paesi un po', diciamo, particolari, per esempio Dubai e Cipro, e un po' delle dinamiche strane anche proprio come si rivolgono alla presentazione dei loro lavoratori. È un po' l'approccio che è particolare, diciamo. Ok. Vogliamo mettere intanto un po' di musica così ci organizziamo per la prossima parte, oppure vai a dritto, non so. Mettiamo un po' di musica. Mettiamo un po' facciamo di musica. Facciamo un intermezzo. Intermezzo per così. Intermezzo musicale, così. Offerto dai FDU. Sì. E quindi ho messo Ellie the Moon perché l'ho scoperta di recente, mi piaceva molto e quindi ve la rivogo subito. Leave This Town. Finisce così. Così. Con una porta che cigola. Sì, era una sedia a dondolo. In realtà io vedo il video, quindi ve lo posso dire. Era una sedia a dondolo. Bene, quindi dicevamo, stavo parlando dei CAPTCHA. Prima, scusate, non ho detto praticamente niente delle cose, delle informazioni di servizio che le persone brave dicono in trasmissione, ovvero i contatti della radio, in particolare il sito radiowombat.net, che tra l'altro è stato ripristinato di recente perché fino a tipo ieri non funzionava e non potevate ascoltare niente, ma adesso rifunziona, fidatevi. E chiaramente il palinsesto di Radio Wombat è un tantino in vacanza, d'altra parte è agosto, perdonateci, e tranne noi nerd che ci siamo nonostante il caldo, insomma tutti gli altri wombati giustamente sono un po' a riposarsi, ma in ogni caso potete riascoltare i vari podcast, le varie trasmissioni che abbiamo fatto durante questo anno se ve le siete perse. E inoltre potete anche comunque continuare a scriverci, la casella di posta la leggiamo lo stesso su postawombat@insiberia.net, e altrimenti se per caso vi trovate alle 23.05 in diretta ad ascoltarci potete scrivere sul nostro pad diretta@wombat.vado.li, che vi ricordiamo essere il modo con cui comunicare con noi wombati e wombatesse quando siamo in diretta, se avete la fortuna di beccarci. Ultima cosa che vi raccomando è di procurarvi, se già non l'avete fatto, una radiolina che abbia la super vintage possibilità di ascoltare le onde medie, quindi una radiolina in AM, e di sintonizzarla sulla 1359, la frequenza meravigliosa di Radio Wombat. Tutto questo era giusto così per darvi le informazioni di servizio, e quindi niente, torniamo al nostro CAPTCHA. I CAPTCHA. CAPTCHA. Poi è difficilissimo a pronunciare. È possibile. Poi lo confondo sempre con QR code, non lo so perché. ormai ce l'ho associato in questa maniera qua. Sì, forse. Allora, una cosa interessante, un attimo. Abbiamo analizzato e trovato le... due aziende principali che si occupano di risolvere i CAPTCHA per conto di utenti, di persone terze. E queste entrambe le aziende prendono un'ottica un po' samaritana, si dice, che filantropa. No, nel senso loro filantropica. Si mettono la mission, la vision dell'azienda è aiutare quelle persone con disabilità a superare i CAPTCHA, perché una persona che non può vedere e riconoscere quelle immagini ha un'alternativa che è l'audio, ma con il limite di tempo e tutto il resto sono veramente difficili. E loro dicono: in questo modo noi riusciamo a offrire questo servizio e aiutare le persone. Anche perché in effetti, se no, a che serve questa cosa? Ah, no. Ah. Noi lo possiamo semplicemente chiamare washing generico. Sì, forse. In realtà sì. Sì, però cioè, no, mi chiedevo, no, effettivamente, ma perché un'azienda dovrebbe pagare delle persone, seppur poco, ma per risolvere CAPTCHA? Fondamentalmente, se si pensa un attimo dove sono i CAPTCHA, si trovano subito dei modi di abusare dei servizi che vanno dalla creazione di account, che possono essere di Facebook, a Gmail, a account di altri servizi, a inviare SMS online, tutti quei piccoli step per creare delle procedure per avere, per esempio, un numero di account fake sui social, di email e così via, che sono fermati e non si possono automatizzare da queste cosine qua. In questa maniera il tutto viene automatizzato più o meno, a parte la parte dei CAPTCHA, che viene rilegato a queste persone dall'altra parte del mondo oppure no. E quindi fondamentalmente il caso d'uso principale è usare questo servizio per cercare di avere un qualcosa che non potresti automatizzare, cioè un risultato che richiederebbe comunque un input umano. E può essere anche, per esempio, semplicemente l'apertura di app o così via, delle verifiche, comunque che sei un umano. E queste due aziende che dicevi in pratica usano un po' come sperone per farsi largo in questo ambito il proprio questa strategia buonista, insomma, nel senso, se sì, vogliamo, di proporre il servizio come necessario per certe, o comunque sia utile per certe disabilità, sì, dico bene, ok, e poi fanno, insomma, in realtà, cioè, da serie, usano questo contesto come deterrente e poi fanno il cazzo che gli pare, insomma, mi pare di capire. Sì, cioè fondamentalmente loro si vanno e si mettono in mezzo e dicono che non hanno nessuna responsabilità. Sui termini e le condizioni di uso loro si mettono soltanto come una piattaforma che mette in contatto un lavoratore e un cliente. Poi come viene usato il loro servizio non gli riguarda, è solo responsabilità del lavoratore e del cliente finale, okay. Loro sono solo nel mezzo, quindi si mettono in questa maniera qui. E fondamentalmente questo, sono aziende poi dislocate, come si diceva prima, a Dubai e a Cipro, e la presidenza e la segreteria di queste aziende sono altre aziende iscritte sempre in questi paesi qui, ed è un po' un tunnel infinito. Perché sono mega ignorante, ma anche Cipro, no, c'ha tipo regimi fiscali buffi e cose strane, no? Non vorrei dire cavolate, però dalle piccole ricerche che ho fatto, la maggior parte degli scammer per quello che riguarda le cripto sono molti a Cipro. Ok. Perché c'è qualcosa di particolare, non c'è, so, c'è del marcio a Cipro. Beh, comunque c'è anche un bel clima, c'è il mare. Scusa, sì, sì, sempre a pensare male. Si mangia anche bene il pesce. Ma infatti. Ok, torniamo quindi a noi. Queste due aziende, i nomi li possiamo fare, no? Sì, sì. Ma sì, tanto sono più pubblici di così, direi. Parleranno con i nostri avvocati. I nostri womba avvocati. E sono anti-CAPTCHA. E CAPTCHA o CAPTCHA, non so, ormai mi sono scordato come si pronuncia. Sono queste due aziende. Ma dai, CAPTCHA non si riesce, sembra Chewbacca, dai, non si può dire. Mettete il suono presto. E fondamentalmente, se si fa una scorsata anche su questi siti, ci sono delle sezioni molto particolari, soprattutto dal lato cliente, su quello che è anti-CAPTCHA. Cioè, proprio i nostri lavoratori, noi abbiamo dei abbiamo dei controlli molto ferrei e precisi sui nostri lavoratori, e siamo sicuri del risultato che portiamo, e altrimenti vengono vengono eliminati dalla piattaforma. È bellissimo che sotto c'è questa animazione di queste persone in, in giacca e cravatta che lavorano su una linea di fabbrica. Immagino. E c'è un supereroe con la pistola che gli spara quando premi un pulsante. Cioè, e poi questo qui cade a terra e ne arriva un altro portato da un braccio meccanico. Che bello! E vengono buttati in una fossa comune. Probabilmente sì. Ma molto bello, ma sì, perché comunque non bisogna dire il falso, cioè noi ci si dice proprio le cose come stanno, senza edulcorare. Bene, bene, bene, molto perché bene. Perché sciacquare, no? Infatti. Si fa prima col washing del perché c'è questo servizio qui. Infatti. E scendendo un po' più sotto, prendendo in caso il Ciuciapcia, su quella sezione spingono parecchio i prezzi bassi del loro captcha, che si parla di 0,004 centesimi per un captcha, e ci vogliono in media, leggendo anche i commenti di questi lavoratori, 7 secondi per risolverlo, quindi dai 7 ai 15 secondi, e questo poi si capirà quanto prenderanno poi in una giornata di lavoro. E effettivamente sul loro sito dicono chiaramente nella sezione lavora con noi che si va dai 20 a 80 centesimi l'ora. Questa è la paga che offrono. Bomba. Sì. Ma quindi, cioè, fondamentalmente quello che fanno loro è una sorta di agenzia di recruiting dove assumono, immagino con dei contratti fantastici, delle persone. No, non ci sarà nessun contratto, immagino. Tra una prestazione. Sì, cioè mica paghi le tasse su sta roba. Nel senso, la cosa assurda in genere di tutti questi lavori è che poi magari lo fanno anche legalmente. Cioè, nel senso che da dove il posto che bandisce quel lavoro, magari cioè, legalmente può pagare un lavoratore un euro, un dollaro al giorno, cioè, non lo so. Comunque di base te quello che fai è, immagino, registrarti su questa piattaforma, poi magari lo vedremo meglio. Sì. E ti firmerai evidentemente delle robe che diranno tipo fai di me quello che ti pare, e poi tu inizi a lavorare e poi questi puzzle, diciamo così, risolti, vengono poi da questa azienda di recruiting spediti a chi glieli compra, giusto? È un po' quando prima si parlava del processo automatizzato per risolvere questi puzzle, nel senso che il cliente si installa un'estensione del browser oppure un'app o qualcosa. Il cliente, cioè quello che deve avere indietro i puzzle risolti. Esatto. Okay. E lo spedisce in momento a quella serie di lavoratori che sono online. Ah, ok. E c'è su entrambi i siti c'è proprio una barra. E qui è ancora più interessante la cosa, se si può chiamare interessante. C'è una barra con i lavori che stanno entrando, la percentuale di sovraccarico o meno. E là, su uno di questi, su Ciuciapcia, c'è un'altra barra che è quanto probabilmente riceverai tu il Ciuciapcia. E a questo punto puoi mettere uno sconto dalla tua tariffa, che va dallo 0 fino al 50% o in su, e più avrai più metterai lo sconto e più sarà possibile, probabile che riceverai un Ciuciapcia. Quindi okay. Si parla anche di un 30% di sconto su quello che era un centesimo e un centesimo. Dio santo. È assurdo. Perché chiaramente, effettivamente, forse non l'abbiamo detto, questi captcha devono essere risolti in tempo reale. Esatto, sì. Il massimo infatti era 15 secondi su entrambe le piattaforme, se non sbaglio. Dopodiché viene mandato indietro il risultato negativo e vieni la tua reputazione, perché c'è anche una reputazione, una classifica dei lavoratori, viene abbassata e quindi è meno probabile che riceverai il ciaccia. E poi arriva il supereroe e ti spara. Però scusa, è una domanda, ma sulla parte proprio dei clienti, per cercare di capire bene chi possono essere, per come la metti te, ora mi viene in mente in effetti che come clientela davvero ci possono essere solo quelle persone che non sono in grado di risolverle, cioè effettivamente loro da sole a scegliere i trattori tra le 7 immagini che hanno davanti. Quindi, cioè, questo software? Sì, no, intendo proprio il cliente che richiede questo servizio, cioè proprio per identificarlo un pochino meglio, perché così invece non è che è solo washing, è proprio che lo sfrutti invece, perché mi viene in mente quasi solo lui ora come tipologia di cliente. Quindi non solo sfrutti, ecco, la sua condizione, ma anzi sì, esatto, proprio ci fai proprio i soldi e lui diventa... lui, lei, insomma, la persona diventa cioè non soltanto deterrenza, ma proprio fonte di guadagno, capito? Sì. È un po' diverso, non è semplicemente che gli fa solo da specchietto per le allodole, è proprio che se non ci fossero quelle persone, che non quali, potresti giustificare. Quali altri clienti potrebbero avere, per esempio? Quello che mi viene in mente così al lampo, dove io non lo userei, però è per esempio. Se io voglio avere voglio degli account Reddit, ne voglio tanti. Gli account Reddit si vendono okay. anche a 50, 60, 100 euro. Più è vecchio, più karma reputazione c'ha su Reddit e più costa, per esempio. Quindi mi serve un'email e poi mi serve che deve postare continuamente. Si possono fare i bot entrambi, è molto facile. Ok, adesso per fare le mail... solitamente quello mi accetta tutto, anche le mail temporanee, però se mi serve per forza Gmail devo andare lì e allora devo ricevere un SMS di notifica. Bene, per avere quell'SMS di notifica forse devo fare un CAPTCHA, okay, e per Gmail okay. devo fare un CAPTCHA e per Reddit devo fare un CAPTCHA. Se io questi ostacoli li supero e c'ho lo scriptino fatto, mi riesco a fare anche un migliaio di account. Quindi in un certo senso comunque sia tra la clientela si rientra anche okay. il problema originario questi blocchi, questi puzzle vengono proposti per evitare quegli automatismi esatto. E quindi cioè, comunque sia è proprio un gatto che si morde la coda. No, davvero. Spesso è davvero per fare in modo che dei computer possano far finta di essere degli umani quando invece non lo sono. Cioè, ora semplifico sì, però. Sì. No, però capito, secondo me è sempre buffo riuscire a rendere fisiche, no? Chi è il cliente, no? Sapere dire che, però effettivamente chi è che ne può aver bisogno? Uno che ha bisogno di tantissimi account su una certa piattaforma potrebbe avere bisogno di un servizio del genere, ecco. Ok, magari ti vuole schiantare, che ne so, vuole fare un'operazione per cui vuole schiantarti un sito, che cazzo ne so, sì. di prenotazioni e allora decide che deve fare X richieste al minuto e lì ha bisogno però di X captcha e tu glieli fai. Ci serve un martello pneumatico per rompere il cemento che abbiamo costruito. è tutto molto bello. Quindi dicevamo che lo stipendio base è comunque una bomba, cioè va quasi su un euro l'ora, per essere fortunelli. Allora, mi sono fatto l'account su Anti-Chap, cioè le due aziende. Perché in realtà hai detto, questa è un'occasione di lavoro troppo ghiotta, ci provo a lavorare. Sul pullman, ho visto già la scritta nella mia testa, puoi lavorare dove vuoi, sono il capo di me stesso. Alla fine di questa esperienza saprai dire captcha. Cioè tipo, questo è quello che ti promettono. E la metto sul curriculum. Ottimo, direi. Allora tiro fuori il telefono, mi metto là e mi faccio l'account, entro dentro e inizio subito a lavorare. Ok, inizio subito e mi arriva il CAPTCHA, il primo. Ed era uno classico con i numerini, niente di straordinario, senza immagini, non so perché. Ah, non c'avevo la loro estensione figa. E lo risolvo 7-8 secondi e mi arrivano sul balance 0,0004 centesimi e da lì mi è partita la botta cioè l'adrenalina era lì che ho visto il cash vero cash però no, cioè perché alla fine ci vuole tantissimo e l'arcando andando un po' in giro tra Reddit, i siti, tutto quanto parlavano per l'appunto un giorno per fare un dollaro. E con il reCAPTCHA, quello con le immaginine, perché il CAPTCHA e il CAPTCHA sono di fino a 4 oppure 5 versioni se non sbaglio, e vanno da quelle che sono con le immagini a quello con le parole e così via. Quelli più difficili vengono pagati di più e non ti vengono dati immediatamente, ma c'è anche tutto quel sistema di reputazione, ti mettono alla prova certo. E in una di queste piattaforme lo stipendio base, quindi andavo 600 euro al mese, leggevo tra le esperienze. Quanto? 100 euro al mese. Ah, beh. Perché c'era quell'euro. Facendo il CAPTCHA c'è anche gente che lo fa proprio tanto, ma parecchie ore. Quindi è un po' variabile questa cosa. Ok. E la cosa sempre interessante è che tutte le piattaforme in cui mi sono scontrato pagano solamente in criptovalute. Ti pagano in dollari il CAPTCHA e puoi ritirare solo in criptovalute attraverso su cui loro fanno i soldi, ovviamente, perché usano degli intermediari che sono affiliati a loro. Grande. perciò non puoi spendere. Se le fai le cose, le fai per bene. Che... Grande. E peraltro un altro sistema con cui guadagnano, e forse viene da lì il dato dei $100 al mese, è che tu puoi invitare la gente col tuo codice e quindi prendi una percentuale dalla gente che lavora, che si è iscritta. Herbalife. Esatto, come le migliori tradizioni. Perché, cioè, Herbalife avrà preso lo perché spunto. No, si saranno esatto. Detto, perché no? Vuoi dimagrire, chiedimi come. Sì, esatto. Certo. Sì, no, intanto stiamo alludendo a tutti quei meccanismi per i quali un lavoratore guadagna a portare altri lavoratori dentro l'azienda. Nella fossa. Sì, esatto. E in genere questi tipi di lavori hanno sempre quella particolarità di vendere il niente cosmico, tipo dimmi cosa pensi di me. Cioè, forse quello son dopo quello di questionare, che anche lì è un altro mondo un po' strano. Beh, in ogni caso... E poi che succede? Comunque, per poter ritirare sti soldi, non è che tu, va bene, lavori, lo fai per un anno, per tanto tempo, c'hai €600 dopo 2 anni di lavoro arduo, non puoi ritirarli perché devi fare un massimo di 500 captcha entro 48 ore per poter ritirare quei soldi, perché vanno in moderazione, viene effettivamente controllato se non sono stati automatizzati in qualche modo. E questa è un po' una... l'ho vista un attimo una cosa un po' predatoria, cioè questa procedura qua, cioè in questo modo è come se io fossi legato dove lavorare sempre per poter ritirare anche quei soldi. Non è che posso fare un cumuletto e me lo ritiro quando voglio, cioè comunque devo tornare a lavorare lì e fare 500 captcha. Boh, non mi è piaciuta tanto questa cosa, mi è sembrata un po' strana. Tutto qua. Va bene tutto, ma questo è scorretto. No, esatto, cioè, ho delle linee morali. Va bene. No, ma infatti poi, vabbè, le considerazioni magari generali da fare ce ne sono diverse, magari ce le lasciamo anche un po' in fondo, però sì, sì, ha molto del colonialismo tipico tutto ciò, cioè proprio l'ABC direi, anche questo fatto del... aiutiamoli a casa loro, cioè del fatto che comunque sia, te rimani nel tuo paese, e una cosa tipica che peraltro non è manco nuova, perché è un qualcosa, io per esempio ho sentito dire da un mio datore di lavoro, boh, penso 15 anni fa, che pagava degli indiani che gli facevano data insert dicendo... Vabbè, io li pago €1 l'ora, ma voglio dire, a casa loro €1 l'ora sono tanti, ci fanno un sacco di soldi, cioè sono roba, cioè che, vabbè, vomito, però cioè nel senso è un meccanismo che è proprio ti costringe in quella condizione, cioè tu rimarrai, cioè sei costretto a rimanere per sempre lì in quella situazione, con quei soldi con cui non potrai fare più di quello che ti è consentito di fare, puoi al massimo sopravvivere e basta, il tuo ruolo è quello. Sì. Quindi chiaro che figurati se puoi mettere da parte dei soldi, cioè te li tiri in criptovalute. Che vuoi fare poi la pensione da lì, poi no. Che ti monti la testa, non lo so, dove si va a finire, le vacanze magari. No, ma infatti cioè, è una cosa che è magari più nota magari nel settore tessile, dei vestiti, che ne so, con la stragrande maggioranza. Ora non so se è ancora esattamente quello il posto, però quando eravamo piccolini tutta roba della Nike e dell'Adidas era fatta in Bangladesh, ed era esplicitamente fatta là, dove quel lavoro veniva era sì. Atroce, ed era esplicitamente atroce e illegale. E quindi poi fare questi, cioè davvero quell'aspetto del lavoro che te usi la condizione magari remota di un paese lontano, molto diverso dal tuo, per dire vabbè, ma là fanno così, là è legale, quindi lo puoi fare, cioè diventano anche lì forme di giustificazione, la parte, cioè squallidissime. È un tipo, non so come dire, ingrandire il plus valore al 2 sì, milioni. No, e anche raccontarsela, perché comunque sia la stai facendo giusta, perché là è legale, quindi... Certo. Proprio sul plus valore, su quella cosa dei 500 captcha entro 48 ore mi ha fatto pensare anche che può essere una maniera, un tentativo, che comunque lo è funzionale a mantenere un certo uptime del servizio. Se sei costretto a fare almeno 500 captcha entro 48 ore, e sono 1000 persone, tu sai, non ti puoi staccare. Non ti puoi staccare, ma sono 1000 persone che hanno questo vincolo qui. Ah. Quindi in un certo senso qualcuno ti rimane sempre lì sulla piattaforma. Certo. Anche c'è questa cosa in più. Certo. E una roba interessante per continuare su questa bella catasta di schifo. Schifo, esatto. È che questa distanza tra i lavoratori, poi vedremo in quali paesi, sono molti paesi in realtà, questa distanza fra tutti i lavoratori di questa piattaforma, oltre a dover lavorare virtualmente senza aver nessun modo di conoscere le altre persone o contattarli con quello che si ha fisicamente, no, ma almeno un forum, un qualcosa, è un tentativo interessante anche di non creare conflitto o cercare di alzare i prezzi, no? Non si può creare una comunità se non esiste nessuna. Quelle che esistono, dove ho trovato almeno dei dati, sono thread di... sono subreddit, sono dei forum creati sempre da loro, ma in autonomia, e sono veramente piccoli in realtà. Mm-hmm. Non c'è molta gente rispetto a quella che ne lavora lì. A maggior ragione, ovviamente, quando si parla di questioni sindacali, cioè figuriamoci se neanche ci si può parlare tra di sé così del più e del meno, figuriamoci se poi possiamo parlare delle proprie condizioni di lavoro, magari per confrontarci e capire come migliorarle, ovviamente. E infatti è interessante, diciamo, la battuta finale su questo discorso qui, perché è un sito dedicato a questo, un sito dedicato proprio a questo argomento qui, ed è abbastanza raccapricciante, troppo caccia. Cioè, un sito dedicato in che senso? È questo sito, è l'azienda sopra anticaccia, è Colotibablo. Madonna, comunque, cioè, tutti scegli lingua. E ha creato questo sito, che si chiama Colo Stories. Mm-hmm. Che è Colotibablo con la K. Sì. E ha creato questo sito qui, dove è una scarellata veramente brutta, ma non per le persone che ci sono. È una praticamente righe di immagini di queste persone che lavorano lì, che sono state selezionate da loro, e si va a cliccare sopra e ci sono le loro frasi che dicono: grazie a questa azienda io vi posso permettere di lavorare quando voglio, sono indipendente economicamente. Ah, ma... quindi è pubblicitaria fondamentalmente. Sì, sì, ed è proprio quei lavoratori che sono lì che dicono che è bello lavorare lì e guadagnano tanto, quando in realtà poi abbiamo visto che non è così. Il dedicare un intero sito a questo, e per lo più questa scarellata infinita che sono solo foto di facce con nome, età e nazione, è molto strano, sinceramente. Colostories.com. Sì, è assurdo. E secondo te questa cosa è stata creata da delle aziende stesse, oppure invece proprio dai lavoratori e le lavoratrici? No, è il dominio dell'azienda. Ah, ok. Quindi... Ah. Peraltro sono su Etsner. Ecco. Evviva. Vabbè. Dato in più. Ma io metterei un altro po' di musica, in modo che ci rilassiamo un pochino, visto che insomma gli argomenti non sono proprio ridenti, e poi torniamo subito in diretta, sempre su Loveless, su Radio Wombat ovviamente. Come as a surprise, I don't think we'd run. time. I will hurt you, I'll desert you. I'm one jacking of a line. I don't think we'd rhyme. I will take up all your time. I will chill you, I'll go through you. I am Jackie down the line. I don't think we'd rhyme. I will make your secrets mine. I will hate you, I'll debase you. I am Jackie down the line. And I will stone you, I'll alone you. I am Jackie down the line. If I can't make you, I can't break you. I am Jackie down the line. I am Jackie down the line. Do, do, do. E questi invece, con questo splendido accento irlandese, i Fountains DC e Jackie Down the Line. Come al solito facciamo un po' queste consulenze musicali, scambi, dove un pezzo uno, un pezzo l'altro. Sì, siamo un po' schizofrenici, ma facciamo ascoltare sempre musica bella. Dopo mettiamo un pezzo techno, ma tipo... sì. Io prima ho messo Shakira, no? Sì. Shakira. Non l'ho fatta apposta. E... quindi dicevamo, abbiamo parlato finora di CAPTCHA, però in realtà avevamo accennato all'inizio che non è l'unico, diciamo che forse CAPTCHA sono un po' il servizio, chiamiamolo così, più famoso, ne ha parlato anche Zero Calcare, quindi insomma è famoso, però in realtà ci sono diversi altri lavoretti, insomma, compiti. Contesti, dai. Cioè, ci parliamo sì, meglio, sì. Sì, insomma, ci sono, non c'è da risolvere. Cosette. Sì, mi sembrava solo la nonna e dice, dai il lavoretto delle vacanze. Che schifo, a volte veramente, vabbè. No, però, ecco, effettivamente ci sono altri compiti, ecco, da fare. Compiti, dai, compiti, sì, è sì, neutro. Non solo risolvere i puzzle, ma anche fare altre cose tipo i sondaggi, i survey, i questionari, che sono praticamente diverso tipo, che vanno dalla sfera emotiva fino agli interessi, opinioni personali, o semplicemente che se questo prodotto è rosso cosa ti scatena in te, o questa serie di parole cosa ti fanno pensare. Marketing bieco proprio. Sì. Mm-hmm. Spudorato, dichiarato. Tanto con un filo di bias. Cioè, proprio, sì. Mi immagino io tipo nel divano, annoiato, tipo rosso, emozioni, blu, freddo. Questo lo potrei La fare. La dedizione che uno può avere. Ma sì, infatti forse... dai. Aspettate, a sentire quanto durano, perché durano tipo da una mezz'ora a un'ora, due ore. No, un questionario a tempo per riempirlo, c'è un tempo minimo e un tempo massimo. Mm. Ok, non puoi semplicemente correre per il tutto il questionario perché ti sgamano, non ti pagano. Ah. E... la cosa strana è qui un nome, l'azienda più grande di questi questionari e altri compiti è Amazon. Amazon Turk, Amazon Mechanical Turk, è questa piattaforma che chiama Gig Workers, quindi lavoratori dei lavori, diciamo, non saprei come definirlo, a progetto forse, la gig economy alla fine rientra in quella roba. Beh sì, però specializzati anche in una branca fintamente tecnica, nel senso di qualcosa che ha a che fare comunque con le macchine, almeno come strumento operativo. Sì, o perlomeno che serve a chi poi invece lavora con la gig economy, non so cosa si intende in realtà. Beh, può darsi che sia un subappalto di un subappalto rimandato. E Amazon M-Turk, che si occupa sia quindi dei questionari che degli altri compiti. E i questionari dei compiti cosa intendiamo? Fondamentalmente sono un po' tutte le attività più disparate, quindi data entry, che è tutto quanto inserire... È pazzesco, no? Scusa, stavo guardando il sito di MTour, che è pazzesco. di inserire un inserimento di dati su quello che può essere un foglio Excel, su quello che può essere un'app che ti consegnano con tutti gli indirizzi di tutti i ristoranti in una certa zona. Cioè la logica non è non posso automatizzare questo compito come era per i CAPTCHA, ma è io vado a verificare che quello che ho fatto sia giusto e logico. Cioè che io abbia un risultato giusto, perché tra questo rientra anche il riconoscimento immagini che viene poi scagliato contro le intelligenze artificiali e ti sparano un'immagine e tu devi disegnare un quadrato intorno a una persona o a una macchina o a un vaso di petunie che cade dal cielo. Fanno questa roba qua. Quindi di base è un modo per validare il lavoro delle intelligenze artificiali di base, mi viene da pensare, e quindi vabbè, c'è già stato probabilmente un machine learning fatto basandosi su un accumulo di dati enormi che magari ti sei procurato attraverso la compilazione dei sondaggi. E poi dopo quel lavoro lì le macchine vengono allenate per poter rispondere ad esempio a questi tipi di compiti di cui parlavi, e poi però questo risultato va validato spesso e viene fatto validare comunque a un umano, giusto? Qua dal sito dicono proprio che non fanno solo questo ma creano anche, cioè non fanno solo la parte di validazione, qua parlano proprio di creazione del dataset che per un'intelligenza artificiale tanto buona quanto è buono tra virgolette il dato che impara, questo in tutti i sensi, cioè se il dato viene influenzato in una certa direzione io posso far sì che l'intelligenza artificiale vada in una certa direzione. I casi più noti sono riconoscimento facciale alle persone di colore, che ad esempio ci sono meno foto a disposizione e quindi vengono identificate come omogeneamente più confondibili tra di loro, e quindi riconosciute come universali colpevoli più spesso, no? È una conseguenza assurda, ma è un questo ad esempio è un risultato di questi bias. In questo caso è veramente assurdo che vendano esplicitamente questi servizi, cioè questi di Amazon Mechanical Tour che sto guardando ora in particolare, perché è, cioè sono servizi dove davvero che ne so, il pregiudizio di genere, il razzismo, insomma, veramente cioè, possono emergere e essere completamente annidati a queste intelligenze artificiali. Cioè, poi quelle robe là ce le ritroviamo su internet veramente di continuo. Cioè, non mi stupirebbe che prima o poi un'intelligenza artificiale si confonda e ti proponga come CAPTCHA da risolvere, tipo trova la persona di colore, cioè non mi stupirebbe, cioè certo. Sarebbe ovviamente grande scandalo, ma o roba del genere. Quindi è veramente assurdo che, cioè, finché si arriva alla parte di validazione uno può farsi è un aspetto, ma la parte proprio di creazione del dato in questa maniera qua, cioè forzandola così tanto, è palesemente un modo per creare delle robe che facciano effetto, sicuramente, perché ti diranno ovviamente la cosa più ovvia, ma che saranno davvero poco corrispettive della realtà, di qualsiasi sia la realtà. Ecco. Sì. Scusate, ma stavo leggendo questo sito di Amazon Mechanical Turk, che è veramente assurdo, andatevelo a guardare e odiateli come li sto odiando io. Sempre su loro, come dicevamo prima, i termini e condizioni sono molto simili a quelli dei CAPTCHA. Loro sono solo una piattaforma che mette in contatto persone, due parti, non fa nient'altro, non c'ha responsabilità per nulla e nessuno gli può andare contro. E basta, questo è fondamentalmente, prima di entrare poi veramente sulle tematiche che affrontano i questionari. E un'altra... Ok, diciamo che i task sono fondamentalmente questi, i più disparati. E passando alla paga, la paga è molto variabile, è molto più alta, cifre molto più alte in confronto ai CAPTCHA, si va dai 20 centesimi fino a se arriva a un $6, 6-7 dollari per i questionari oppure i compiti. Beh, che comunque ci metti molto di più, quindi. Beh, sì, 6-7 dollari l'ora o 20 centesimi, perché sono veramente pochi poi i questionari che raggiungono quel livello, cioè quel livello di compenso. E poi una volta che si è pagati, se tutto va bene, si è pagati, si riceve anche un bonus che è variabile, a volte è lo stesso valore del questionario, quindi arrivi fino a 40-83 dollari per quello che è da mezz'ora a due ore. E fondamentalmente è un po' questo mondo qui, anche quello di Amazon Mechanical Turk, come tante altre piattaforme che si occupano per esempio di testare le interfacce video grafiche dei siti web. Offrono fino dagli 7-8 dollari fino agli 11, poi ci sono delle piccole piattaforme per tutti quanti questi servizi, diciamo che Amazon l'ha presi, l'ha inglomerati in questo. Mi fa effetto pensare che alla fine la retorica degli ultimi anni è appunto di quanto il progresso tecnologico sia andato avanti, di quanto i computer sappiano fare delle cose strabilianti, no? E sanno sempre cosa pensi e ti consigliano tutto giusto. Poi vai a vedere, di fondo, in fondo c'è una sequela di schiavi, cioè migliaia e milioni di schiavi che creano appunto i dataset, creano tutto questo fondo della piramide, che a quel punto sì, grazie tanti che il computer è in grado di predirti le cose, cioè praticamente a costo di uno sfruttamento di milioni di umani, che comunque sono loro che hanno fatto il lavoro poi in fondo. Mi fa ridere. Ma perché, cioè, secondo me è legato un po' al tirare alla linea mediana, cioè avere un risultato intermedio, e in quel risultato intermedio ancora un essere umano è più accurato di una macchina, almeno nella maggior parte dei servizi, magari non di ricerca, ma nei servizi effettivi che poi si mettono in produzione ancora. Anche nella pubblicità, banalmente. Sì, ad esempio, sì. E quindi, sì, cioè, è un po' così. Non è cambiato molto. No, no, nel senso che secondo me sia un po' l'aspetto di accuratezza, cioè che effettivamente una persona è più accurata di una macchina in certi task ancora, e l'altro è che probabilmente costa di più, perché se uno fa l'effettivo conto della risorsa di rete, la risorsa della macchina che devi tirare su, la risorsa dei dati che devi trasmettere per allenare ste cazzo di intelligenze artificiali, perché si parla sempre di, cioè, quando di molli di dati molto grandi, quindi anche a livello economico ci sta che ci sia un banale conto di mi conviene usare una persona. Anche perché, cioè, banalmente quando si parla di mining, cioè, non lo vedi se chiaro. Il prezzo che paghi è quello che dicevi in particolare, cioè. Ma e poi basta anche, ora al di là di quanto poi viene pagato il lavoratore o la lavoratrice, ma cioè anche i dispositivi attraverso i quali si lavora, mica te li dà l'azienda, sono tuoi. E la corrente elettrica è tua, la paghi te, e sembra un costo irrisorio, ma se lo spalmiamo su milioni di persone, hai risparmio, cioè evidentemente per l'azienda è un calcolo, insomma, un risparmio notevole, se no mi devo fare un cluster di chissà quanti computer, dove gli stai dietro, dove lo gestire, cioè. Sì, devo pagare l'elettricità, insomma, comodo. Comunque mi sono aperto qui sotto un post su Reddit di una di questi, una lavoratrice o lavoratore che chiedeva se dovesse fare questo questionario o no. Questionario da $4 per due ore, gli altri ci hanno messo 28 minuti, 40 minuti. E i requisiti sono una storia di cura psichiatrica e del resto. Cioè, scusa, ok, il suo storico. I requisiti per il candidato, sì, migliore. Sì, per poter fare questo, cioè, quelli ideali, cioè che devi avere questi requisiti qua. Ma infatti la cosa che dicevi prima sul il fatto che queste cose magari vengono usate per colmare i bias, cioè è interessante che poi per l'appunto appunto vengono fatti fare queste robe a quei paesi che magari non compaiono spesso e quindi per colmare questo divario le persone magari che ne so, cioè, è interessante perché proprio si fa il giro del politically correct fino a non so. Eh sì, cioè soprattutto in quei posti dove non credo siano molto diffusi quelle pratiche, ecco, di nemmeno di correttezza o che magari, ecco, anzi, dove siano oggettivamente alle volte anche più facili a sostenere certi stereotipi, certe abitudini spacciate per conservatorismo o per tradizione, e quindi Cioè, il è abbastanza comune, cioè. prezzo che la comunità, che ne so, pakistana venga rappresentata in una serie TV ad Hollywood o, Sì, è esatto. pagato da, non so, X pakistani, magati un centesimo l'ora, Sì. ma bomba, ottimo, abbiamo fatto dei grandi progressi. Sì, e infatti, insomma, abbiamo biecamente iniziato a parlare di nazionalità e sì, sempre dalla pagina che diceva prima il collega, quella Colo Tibablo, che era praticamente Sì, quello Stories. sì, esatto, praticamente quella pagina che raccoglieva, ecco, le testimonianze di questi entusiastissimi lavoratori a un centesimo al giorno, tipo, insomma. Una cosa buffa è che ci sono le loro facce in primo piano e la loro nazionalità, appunto, messa in bella vista, cioè il nome anche, cioè faccia, nome e la bandierina della nazionalità. E ci sono delle sacche che sono chiaramente prevalenti, c'è un sacco di gente da Singapore, però ad esempio ce n'è anche tanta dalla Colombia, Afghanistan. tantissimi dall'India, ovviamente. Ovviamente, ecco, appunto, a forza di stereotipi, per quello stereotipo che anch'io poi non è come verificato, però che ci siano tantissimi lavoratori digitali dall'India in generale che facciano varie cose. Quindi prima ci domandavamo, cioè, quanto possa influire, ad esempio, quanto, ecco, insomma, ci ha colpito questo aspetto che fosse espressa e esplicita, insomma, la nazionalità di tutti gli aspetti di una persona, ecco, c'è, cioè, la faccia, il nome, la nazionalità. E ci rendiamo conto però che le nazionalità, ad esempio, che poi vengono riportate qua sono abbastanza limitate, cioè per lo più sono quelle che ho detto prima, cioè Colombia, Singapore, ci sono un po' di mosche bianche qua e là, Sì. però insomma ci sono delle sacche, ecco, proprio tribali quasi, sembra. Quindi ecco, vabbè, ovviamente c'è un po' di passaparola inevitabile, anche semplicemente appunto di vicinanza geografica, però magari ci sono anche come dire, dei attestati di possibilismo, figaggine che si vengono a creare in certi contesti e che quindi spingono più persone di una certa area, di un certo contesto, a andare a fare la stessa cosa. Questo sembra, boh, è una cosa buffa, non so se. Sì, vabbè, sì, è strana. Sì, senza contare che ovviamente banalmente, come dire, proprio rasoio di Occam, spesso semplicemente che non c'è altro, cioè Ah, no. che non c'è grande altre possibilità. Mi viene in mente che tra la lista dei paesi ne leggevo, mi spiccava, a parte anche l'Italia, ma vabbè. E poi mi spiccava anche gli Stati Uniti, che comunque mi immagino, non so se è un mio pregiudizio, ma mi immagino che si intenda non proprio il maschio bianco tipico degli Stati Uniti, immagino comunità migranti che vivono sì negli Stati Uniti, che però appunto anche lì è come se fosse una sacca all'interno di un paese ricchissimo, che però Sì, ha un mondo suo a pagato. parte. Pagati una carota e una cipolla. Sì. Sì, che poi appunto lì oltretutto c'è cioè, un centesimo, manco ci fai niente gli Stati Uniti, cioè, almeno dici buon Pakistan, magari lì no. Vabbè. Un'altra cosa a cui riflettevo prima, cioè pensavo a questi questionari, no? Anche tutto il perché chiedere le emozioni e tutto il resto. E ho notato questo fatto che per iniziare a lavorare su questa piattaforma di Amazon devi avere un account Amazon esistente già e ti colleghi con quello e sei quella persona lì, cioè sei quella persona che utilizza Amazon anche per acquistare, se lo utilizzo ovviamente. Mm-hmm. Ed è un po' strano, cioè nel senso è una profilazione. Quei risultati sono anonimi, ma in ogni caso, anche se sono anonimi, comunque c'hai, perché è un questionario d'attitudine, c'è la mia nazione, il mio range d'età, il mio sesso, e quindi c'è delle risposte ben precise su degli argomenti precisi. C'è un profilo, certo. E quindi c'è anche tutto quanto uno studio sulle pubblicità poi da dare a quel settore di persona, quel fascio di persone lì, immagino. Cioè, almeno è una supposizione mia, però mi immagino un possibile utilizzo di questi questionari sia questo. Sì, penso sinceramente che sia il maggior uso che fanno, cioè nel senso sia siamo dei principali, credo, non lo so. Anche perché è una delle cose, cioè voglio dire, è abbastanza ormai di dominio pubblico, è cosa banale dire che i dati personali sono una delle merci più, come dire, merci di scambio più ambite e più costose, quindi un intero questionario con tutti i miei gusti o perlomeno parte dei miei gusti su un determinato argomento, è chiaro che insomma viene pagato anche molto bene, quindi immagino che chi ha prodotto questo questionario poi si rivenda a caro prezzo le risposte. Ha senso, credo. Ok. No, sicuramente li vende a caro prezzo, però appunto sempre, cioè, per il valore che hanno, che è collettivo, non individuale, cioè è una cosa che ovviamente ci fraintendiamo sempre, è ovvio, ma sì. Tutta la più intima selezione delle cose che io preferisco sono sicuramente importanti per ogni collezionatore di dati, ma non per me, ma come elemento dei tanti. E quindi sicuro queste robe qua, soprattutto queste aziende, insomma, realtà che collezionano tutti questi dati, sì, le vendono a soldi buoni sicuramente. Ma sì, ma questa cosa poi peraltro veniva fatta anche prima. Ecco, la cosa che è cambiata ovviamente è che prima magari questo tipo di sondaggi venivano fatti telefonicamente, peraltro molto spesso a gratis, perché io ho visto molte volte, cioè, sondaggi fatti in maniera massiva a persone che di base, cioè, contavano su quell'utenza che sta a noi a casa, quindi tendenzialmente anziani o persone che stanno a casa e che in fondo poi alla fine c'hanno niente a fare, no, sentono una voce al telefono e giù, vabbè, gli svolta un quarto d'ora si fa estate del 76 eravamo io, mi ricordo, sì, quindi boh, alla fine, cioè, queste robe, cioè, effettivamente esistevano anche prima, ecco, adesso vengono fatte in maniera ovviamente massiva, nel senso se chiaramente hai, cioè, se prima magari pagavi un call center di 20 persone che ti faceva questo tipo di sondaggio al telefono e che ti chiamava tutte le signore della provincia di Varese, vabbè, quante ti rispondevano. Ora chiaramente spiattellando tutta questa cosa su una mole di utenza e anche di lavoratori e lavoratrici molto più vasta, chiaramente insomma i soldi aumentano, cioè chiaramente non si tratta più di pochi dati, si tratta di dei famosi big data. I big data si fanno così poi alla fine. E poi è un aspetto buffo perché sembra sempre che queste cose caschino un po' dall'alto. Cioè poi in realtà sono dati su di noi, vuol dire che ce li devono aver tirati fuori in qualche maniera, non è che ci leggono nei computer la notte, te li storcono dal cervello, sei te che glieli dai a un certo punto. E quindi sì. Bene, molto bene. Non lo so, abbiamo altre perle, altre cose edificanti per far andare a letto contenti e contente i nostri radioascoltatori? No, mi terrei così. Sì, con questo lieve proprio disperazione. Un QB che fa sempre bene prima di andare a letto. E quindi vi lasciamo, direi, con un pezzo che forse ci rilassa un po', almeno il titolo lo promette, Electric Relaxation, non so chi di voi l'ha messo, l'hai messo a te. È una cover però, molto bella. Va bene, perfetto. No, ma noi ci fidiamo. E vi diamo appuntamento a non sappiamo assolutamente quando. Mai più, stronzi. Tanto non ci sperava nessuno, eh. Non è che erano lì a aspettare. Lo so, lo so, infatti è bello. Ma siamo punk, che ci frega. Non ci vedete mai. E vabbè, quando capita, a un certo punto. Ma è anche il bello, no? Che voi dovete ascoltare sempre in diretta Radio Wombat, perché non sapete mai cosa vi capita, come direbbe Forrest Gump. Potrebbe essere un pezzo di diaframma, o potremmo essere noi. Oppure Vaiano. O Vaiano. Vaiano. Noi a Vaiano. Vaiano. Va bene, quindi a chissà quando, e vi auguriamo nel frattempo una buona nottata e una buon Ferragosto, perché penso che sicuramente prima di Ferragosto non ci risentiremo, e quindi a presto, sempre ovviamente su Radio Wombat. Ciao ciao! Ciao!